L'alfabeto della sostenibilità. Una produzione Radio 24. Con Ruggero Rollini. L come libero mercato. È un mercato in cui i prezzi di beni e servizi sono raggiunti esclusivamente dall'interazione di venditori e acquirenti, ovvero produttori e consumatori. Il libero mercato dell'energia prevede che gli utenti possano liberamente decidere a quale fornitore rivolgersi. Alla fine degli anni 90, in Italia si avviava il processo di creazione del mercato libero dell'energia, grazie all'entrata in vigore del cosiddetto decreto Bersani, dal nome dell'allora ministro dell'industria Pierluigi Bersani, che ne detta gli obiettivi precisi. Si voleva superare il monopolio, aprire una grande fase di investimenti e quindi aprire anche a una concorrenza e creare sostanzialmente un settore economico. Questo decreto recepiva ufficialmente le indicazioni delle direttive comunitarie volte alla creazione del mercato unico dell'energia in Europa, che ha permesso una graduale liberalizzazione dell'attività di produzione, importazione ed esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica. In Italia il mercato dell'energia è stato completamente liberalizzato da luglio 2007. Da quel momento ogni fornitore può decidere in qualsiasi momento di entrare sul mercato e gli utenti possono liberamente scegliere a chi rivolgersi. Prima di questo importante cambiamento, i consumatori non avevano molta scelta. Dovevano obbligatoriamente rivolgersi all'unica impresa di distribuzione locale per la fornitura di luce e gas, che praticava prezzi stabiliti dall'autorità per l'energia a livello governativo. La liberalizzazione del mercato dell'energia permette di scegliere il fornitore più conveniente, cioè quello che riesce a praticare i prezzi più bassi e che offre i servizi più adeguati alle singole esigenze. Questa liberalizzazione ha messo in moto meccanismi virtuosi di concorrenza a vantaggio dei consumatori. Dal rapporto annuale 2020 dell'Autorità per l'Energia è emerso che un utente su due è passato al mercato libero. Da agosto 2020, per la prima volta da quando il settore è stato liberalizzato, i consumatori domestici che hanno sottoscritto un nuovo contratto hanno superato coloro che hanno preferito rimanere con lo storico fornitore, quello vecchio, quello del mercato tutelato dall'Autorità per l'Energia. Un'importante differenza fra i due mercati è il prezzo del kilowattora, che nel mercato tutelato cambia ogni ora e ogni giorno seguendo le oscillazioni tra domanda e offerta, tra chi produce l'energia e chi la vende. Mentre in quello libero il prezzo dell'energia è fisso, viene fissato dalla compagnia, è quello indicato nel tuo contratto e non oscilla in base alla domanda e all'offerta. Se da una parte questo è un vantaggio per evitare sgradite sorprese in bolletta, dall'altra il consumatore è tenuto a prestare maggiore attenzione nello scegliere la tariffa più conveniente per i propri consumi e monitorarla nel tempo. In questo contesto chiaramente si colloca anche il mercato delle energie prodotte da fonti pulite. E il dato confortante è che le rinnovabili hanno coperto complessivamente il 40% della domanda elettrica nel 2020, rispetto al 36% del corrispondente periodo nel 2019. Molte compagnie fornitrici si stanno muovendo per offrire ai consumatori energia verde certificata. Il consumatore può così scegliere una fornitura di energia generata al 100% da energie rinnovabili. Anche questo è un criterio di scelta che il mercato libero offre. L'alfabeto della sostenibilità. In collaborazione con Enel.